GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È Liverpool-Chelsea la prima semifinale di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale, ieri sera i londinesi eliminano i turchi del Fenerbahce 2-0 con i gol di Ballack e Lampard. Spettacolo ad Anfield Road, dove il Liverpool batte 4-2 l'Arsenal, che però fino a 7 minuti dalla fine aveva la qualificazione in tasca dopo il 2-2 di Adebayor. Poi decisivi un rigore di Gerrard e la rete finale di Babel. L'allenatore del Liverpool, Benitez, a Sky Sport, guarda già alla sfida col Chelsea. Penso che la squadra è una squadra forte senza Mourinho, con Mourinho sempre ho parlato della qualità dei giocatori, che penso che è la differenza. E oggi in campo il Barcellona, che riceve lo Schalke 0-4, all'andata in Germania 1-0 per i catalani, e soprattutto la Roma, che senza il suo capitano Totti prova l'impresa a Manchester con lo United, che parte dal 2-0 ottenuto una settimana fa all'Olimpico. Spalletti indica ai suoi la strada per tentare la rimonta. Dobbiamo far finta che non sia successo niente, perlomeno per un'ora di partita. Dobbiamo sviluppare un'ora di partita non pensando al divario del risultato dell'andata. E dopo un'ora di partita vedere un po' com'è la situazione. E sempre a Manchester scattano oggi i mondiali di nuoto in vasca corta. Tra gli azzurri protagonista attesa proprio una tifosa giallorossa, Alessia Filippi, fresca bicampionessa d'Europa, preoccupata però per il clima di contestazione in vista dei giochi di Pechino. Quando hanno assegnato questa Olimpiade a Pechino già c'erano questi problemi, si potevano pensarci prima, non è che non mi tocca assolutamente il fatto di questa cosa, però comunque ci sono interessi economici e politici dappertutto, questo è ancora più grave, però io sono un atleta, quindi per me l'Olimpiade è un'unione di popoli, di tutto quanto, quindi la stanno rovinando un pochino. Per la pallavolo scattano oggi con gara 1 i playoff scudetto, in campo Trento-Modena, Cuneo-Montichiari, Treviso-Piacenza e Roma-Macerata. Chiudiamo con il ciclismo, oggi 70esima edizione della Gand-Wevelgem, classica del nord, tradizionalmente preda dei velocisti. Tra gli italiani atteso protagonista Filippo Pozzato. È una corsa che è molto difficile da interpretare perché è abbastanza semplice come percorso, quindi è difficile la sua interpretazione. Se c'è del vento può venire dura già in pianura senza aspettare il camel, se c'è il camel possono rientrare i velocisti, quindi chi è davanti va tutto per non farli rientrare. È un po' una corsa difficile, ma bella anche per questo. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport a partire dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.